ritorni più. Vai, vai, vai, vai, tanto sai non mi importa più. Vai, vai, vai, vai. Anche se mi mancherai, vola libera dove vuoi. Tutti, tutti sanno che io non piango mai. Sai cosa vuoi per te? Vai, vai, vai, vai. Ora ciao, tante cose, ciao. Vai, vai, vai, vai. Anche se mi mancherai, vola libera dove vuoi. Tutti, tutti sanno che io non piango mai. Anche se mi mancherai, sanno che io non piango mai. Se fra noi non c'è niente più, vai, vai, vai, vai. Se tu vuoi non pensarci su, vai, vai, vai, vai. Anche se mi mancherai, vola libera dove vuoi. Sanno che io non piango mai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Anche se mi mancherai, vola libera dove vuoi. Tutti, tutti sanno che io non piango mai.